In realtà mi piacerebbe molto che questa amministrazione, visto che siamo agli sgoccioli, che scade il mandato, lasciasse un segno importante alla cittadinanza mettendo in atto quanto prevede lo statuto del Comune di Bologna. Lo statuto del Comune è uno statuto molto avanzato dal punto di vista della partecipazione alla vita della pubblica amministrazione, quindi mi piacerebbe che fossero trasformate le belle parole dello statuto in azioni. In questo momento quello dell'ambiente e quello del verde è molto sentito dalle cittadine e dai cittadini, un po' per il discorso della qualità dell'aria, che sappiamo che nella nostra zona è pessima, ma anche la pandemia ha dato maggior consapevolezza a tutte e tutti che il verde è qualcosa di molto importante per la nostra vita. Dicevo, lo statuto dà molta importanza a due articoli, l'articolo 2 e l'articolo 4, che sono ricchi di commi che valorizzano proprio la partecipazione. Ne abbiamo parlato della formazione di una consulta già all'inizio dell'anno, quando c'è stata una apposita commissione che si parlava proprio della tutela del verde, e lì era venuta fuori questa volontà, che poi è una richiesta di moltissime associazioni piuttosto importanti. A maggio poi ne ho parlato nella conferenza dei presidenti, per arrivare finalmente a questa udienza conoscitiva che ci sarà oggi pomeriggio, dove si discuterà proprio della possibilità di indire questa consulta. Mi ha fatto piacere che anche il Partito Democratico, infatti lunedì la consigliera Leti ha fatto un intervento propositivo, per cui io prevedo, insomma, che ci sarà un buon risultato. Ecco. Questa consulta da chi dovrebbe essere composta e cosa dovrebbe discutere? La consulta dovrebbe essere composta da associazioni, ma anche da cittadini e cittadini. Sarebbe anche un punto di incontro tra il mondo dei professionisti e il mondo, per esempio, della ricerca, perché ci sarebbe la scuola, l'università, quindi molto molto ricca. Che cosa dovrebbe fare? La consulta è per la pianificazione, la gestione, progettazione, tutela, cura, valorizzazione e sviluppo del verde pubblico e privato all'interno del territorio comunale, quindi avrebbe delle funzioni consultive, propositive e di divulgazione culturale. Quindi sarebbe per il comune, diciamo, un valore aggiunto, no? Proprio perché ci sarebbe una rete che potrebbe supportare, che il comune potrebbe consultare per le proprie azioni nell'ambito del verde. Sarebbe poi a costo zero. In questi anni, proprio sul tema dell'ambiente e del verde, abbiamo visto a Bologna diverse vertenze, diverse campagne, penso ai prati di Caprara, ma penso anche altro. Quindi questo strumento servirebbe anche per la partecipazione su questi temi che negli anni hanno creato anche qualche dissidio? Certo, sarebbe importante anche per questo, per tutto quello che viene avanti, per tutte quelle idee che vengono avanti sul verde, si potrebbero evitare questi problemi se ci fosse una consulta, perché all'interno si discuterebbe di volta in volta di quello che si ha in mente. I prati di Caprara sono un esempio davvero lampante di quello che è successo a Bologna, che si è formato un comitato che ha lottato fino ad arrivare, c'è stato un importante momento di partecipazione in comune, però sono state raccolte delle firme per discutere del problema dei prati di Caprara, e adesso diciamo che siamo in stand-by.